Hadith numero 3. Da Abu Abdurrahman a Abdullah bin Umar bin al-Khattab, che Allah sia compiaciuto di ambedue, disse: udii l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, dire: l'Islam è basato su 5 pilastri: la testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah, il rito d'adorazione, il pagamento dell'imposta coranica, il pellegrinaggio alla casa di Allah e il digiuno di Ramadan. L'hanno riferito i due imam al-Bukhari e Muslim.